cerchio da quadrare, pianta regolare, mi aspetto vita circolare. Come trovare direzione? Città che sappia consigliare, come ingabbiare o come meglio stare. Dentro le vasche bianche, colme di parole, come ascoltare quello che non ti va di dire. La calma indifferente di una domenica obbligata, lenti come fossero perle, lenti come fossero perle. Malinconicamente, più abituati a sognare, di liberare bandiere. Penso al carcere speciale, penso al carcere speciale e al suo contraltare morale.